Mi sa che ci lo fanno gratuitamente, però quando li prendi dal canile, quando così non lo so. Sì, infatti quando sono femmine sono problemi, perché quando entrano in calore se non li fai sterilizzare, quando entrano in calore, addirittura c'era una ragazza che abitava sotto, vicino a casa e i cani randaggi l'aspettavano sotto nel portone perché aveva la cagna in calore e doveva fare il giro dal cortile, prendere la macchina dal cortile e caricarsi le macchine e il cane uscire con la macchina, se no e tutti i cani va, tutti i diani in ubriaco. Guarda, io questa volta ho comprato uno spray che usano molto spesso a caccia, non ci credevo, insomma, perché comunque l'ho sforzato e penso ogni anno io avevo sempre i cani degli altri dentro campagna mia. Questa volta o perché c'è il rottweiler o perché gli ho spostato questa roba qua, il cane non ne ho visto in circolazione. Lui è sempre attaccato, lui ha meno di un anno, quindi non ho problemi, non credo che ce la faccia a salvarlo, però lui è sempre attaccato. Non so, ce la fa. Ma che cos'è? Un repellente questo affare qua? È uno spray che tu metti nella schiena, nella coda, insomma nella parte intima di lei, e l'odore forte di una lavanda, credo, di un fiore particolare che dia fastidio a loro, capito? Quindi il cane non lo sentono, o perlomeno. Certo, mi hanno detto, io quando la mia cagnetta è in canone glielo spruzzo e i cani non lasciano lavorare bene. È un repellente, sì. Io lo usavo per il gatto. Quando i gatti graffiano i mobili e roba del genere, spruzzi questo repellente e non ci vanno più. E poi c'è anche la trattina per farli imparare a fare la pepina e la lettiera. C'è questa cosa che li attrae, ce n'è uno che è repellente e l'altro che attrae. Uno che li attrae e l'altro che proprio li fa andare lontano. Babbo, io ti lascio che è già tardi, dai. È passata l'ora. Ti saluto, che devo andare a prendere la signora. Dai, signora, dai. Ci sentiamo. Sì, non c'è problema, già, tranquillo, dai, ci sentiamo. Stammi bene, ciao. Antonio, ci sei? Sì, ciao Gianni, ci sentiamo, stammi bene. Buon coletti, buon tutto. Andare. Come invece quando vedo i cani, ma sembra lui il padrone, quando vado al bar e incomincio a bagliare mi tocca andarmene io, fuori, perché se vuoi buttare la bottiglia in terra. Ah no, quando è così, il cane se è maleducato lo devi educare, quindi anche se lo vuoi bene si deve saper controllare. Tu pensa che io in quel bar lì dove ho trovato Simona, lui era legato fuori e io ero all'interno che stavamo facendo colazione, quindi era tranquillo, seduto aspettando a me, ti puoi immaginare? E invece come? Quando Simona va a fare colazione in quel bar lì, si vuole accanto a lei, si vuole, e quindi si mette vicino, capito? Però se entra qualche altro cane guai. Vabbè, non l'ho entrato perché non era il caso di entrarlo, però diciamo ero legato lì alla ringhiera e è stato tranquillo. Ah beh, quello sì. Il mio è tutta testa sua come cane, però una cosa sarebbe bello, quando c'è Simone che sta male, sta sempre appresso, gli dà una mano a, capito, andare in a letto, in bagno, quello che c'è, c'era sempre dietro. Poi quando io faccio fare finta di, siccome a volte posso svegliare, lui c'ha il vizio di svegliarmi la mattina presto, verso le 8, a volte viene e cosa fa? Si mette sopra la testa mia e mette il musetto vicino al naso che c'è mio. Se sente che respira, beh, se sente che non respira, allora fa. Vado a fare una cosetta lì fuori, io dopo vado a mangiare ancora il cane, ancora glielo dato stamattina, mi sposto un attimino dalla radio, se coincide a dopo, dai. Ehi, d'accordo, ci che c'è un moschetto, è pronto. Via, è capito. Va bene. Ciao, ciao. E via, ciao, ciao. Attenzione K. E buona cena a tutti. Sto sgrasciando.